il territorio sappiamo che controlla anche un aspetto più fisico, diciamo, però in realtà l'aspetto tecnico degli strumenti è quello che nei prossimi anni dovremo fare i conti. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale che produrrà sicuramente, secondo alcuni esperti, l'intelligenza artificiale qui al 2025 produrrà il 70%, se non molto, dell'umanità, sarà inutile. Il termine è proprio così, come dicono i tecnici, sarà inutile. Perché mentre durante la rivoluzione industriale, il cammino del braccio, con le catene, eccetera, questo processo molte persone non serviranno. Addirittura vedevo che in Campania andiamo sempre dopo, invece questa volta, per esempio, in alcuni ristoranti mi sorprende, ci sono i robot che qui si portano, che vengono a prendere l'ordine cosa vogliamo mangiare. E questa cosa porta dei problemi grossi, perché quando il 70% dell'umanità non serve più, la domanda che si fanno i tecnici, la tecnici, no? Ma quest'altro, questo 70% non ha, che fine deve fare? La domanda è molteplice. La repressione, i quartieri ghetto, i manicomi, i farmaci per stare calmi, ma anche addirittura all'ultimo convegno che hanno fatto i ricchi, c'era qualche ricco che aveva proposto il reddito universale per questi qua che non serviranno più come braccio. E quindi il problema è come controllare questa massa enorme di inutili. È un termine che non uso io, uso loro stesso. Come si controllano? I controlli sono molteplici, ma il controllo anche sulla nostra testa rispetto alle nostre riflessioni, rispetto a cosa è oggi il capitalismo, a cosa deve essere una risposta diversa da una società capitalista. Tutte queste nostre domande vengono molto, molto spesso inibitate da un processo meccanizzato che ci induce molto spesso a dire sciocchezze. Quindi io concludo dicendo che quando ci riguarda questa presentazione libera è un primo passaggio di una riflessione più complessa che dovremmo fare su questa cosa, perché insieme a questo dovremmo riflettere quali sono le risposte, che non possono essere più quelle classiche, quelle che una volta facevamo, diciamo, le nostre risposte classiche di classe, eccetera. Oggi le risposte dovrebbero essere un po' diverse, ma quali? Quindi la riflessione è molto più ampia. E io direi di partire dalle cose che ci daranno, di leggere libri, di tavoli di leggerlo, che mi sembra, a me personalmente, sto facendo molta fatica di allenarmi, però lo trovo molto interessante, e quindi grazie a Renato che ci presenterà lì. Buonasera. Questo lavoro che porto segue un percorso che da alcuni anni sto facendo, però il momento particolare in cui ci troviamo è un po' lo sfondo del ragionamento che cerco di fare, ed è un momento terribile, stiamo vivendo tutti per più ragioni. Una ragione è che le certezze degli anni passati sono cadute a pezzi, siamo in un mondo che ci confronta con processi che neanche la fantasia più rivoluzionaria, più scatenata, riusciva a immaginare, voglio dire 30.000 morti in pochi mesi per un'operazione di geopolitica, beh, insomma, sono un tipo di esperienza, anche esperienza umana, che non conoscevamo, non conosciamo, e che quindi occorre contestualizzare bene, cercare di capire. il lavoro che vi porto è un piccolo contributo a guardare le dinamiche che in qualche modo ci hanno portato qui e soprattutto quelle che si aprono in questo momento. Siamo di fronte, lo diceva prima, siamo di fronte a una trasformazione del modo di produzione capitalistico che ci fa persino dubitare sul significato della parola capitalismo. È una parola che per tantissimi anni ci è sembrata assolutamente chiara, insomma. C'è una società, un modo di produzione che dall'Ottocento a oggi è stato guardato e riguardato, e avevamo molte certezze su questa, diciamo, modalità di sfruttamento, di controllo, di potere, avevamo alcune certezze che oggi, diciamo così, traballano un po'. Che cos'è oggi? Qual è il significato che noi oggi possiamo dare a questa parola capitalismo? È una parola che si è progressivamente sdrucita, slabrata, ha perso progressivamente significato, fino al punto che lo viviamo tutti quanti come una specie di destino, no? C'è chi parla di comunità di destino, sei lì, sei in questo tipo di contesto, sì, lo contesti un po', ma poi alla fine l'Occidente, il modo di produzione, il modo di vita dell'Occidente ci dice che in qualche misura fuori di lì non si riesce a stare. Io ho dubbi su questa interpretazione del modo di produzione capitalistico e dell'Occidente dentro il quale viviamo, e soprattutto ho dei dubbi perché ci troviamo dentro una cosa che viene chiamata, ma è anche dagli analisti, eccetera, no? Il contesto geopolitico occidentale. Vorrei proprio invitarvi quindi a ragionare un po' su questa, diciamo, definizione che ci ingloba, no? Anche come Stato, quindi anche come società, all'interno di un contesto più grande, che è questo contesto geopolitico che si sta scontrando con altri contesti geopolitici, quello cinese, quello russo, e non si sa bene all'interno di quale ragione noi dovremmo stare in questa situazione. Allora, la prima considerazione penso che dobbiamo fare è un po' di tipo storico. Questo contesto geopolitico sostanzialmente cosa significa, no? Perché ha a che fare con il capitalismo, nel senso che è capitalistico, ma nello stesso tempo non ha più a che fare con la nostra esperienza, che era un'esperienza legata a dei contesti specifici, gli stati, la comunità europea, eccetera. Oggi tutte queste parole qui non hanno più nessun significato pratico. C'è questa nuova ridefinizione dei confini che ci dice sostanzialmente che è un aggregato di poteri di varia forma, varia natura e varia consistenza, no? Sta prendendo in mano il destino di uno scontro che ha un carattere mondiale. Ce lo sta dicendo con i fatti, c'è bisogno che qualcuno ce lo racconti con le parole, cioè in Ucraina vediamo che c'è un tipo di scontro, in Centro Africa c'è un altro, Palestina c'è un altro, però tutti sono stranamente connessi, collegati, e tutti ci tirano costantemente dentro con una richiesta di cittadinanza, cittadini, di essere un po' da una parte o dall'altra, con chi stai, da che parte stai, no? Se sei, diciamo così, esprimi un'opinione su un'area del mondo, sei filo a qualcuno, se ne esprimi un'altra sei filo a qualcun altro, cioè tu non esisti più come un soggetto con una sua testa, una sua esperienza e una sua storia, ma esisti in quanto, diciamo, ti schieri con questa entità che che è, diciamo così, è il contesto geopolitico occidentale. Allora guardiamolo un attimo, questo contesto geopolitico, perché si è formato nel corso degli anni, no? Per esempio, in Italia questo contesto si è formato in una maniera molto specifica a partire dal 49, in una maniera abbastanza ben definita. Nel 1949 c'è una grossa discussione in Italia che divide profondamente questa, la società italiana, che è uscita da, da anni, diciamo, di scontri, eccetera. Ecco, ieri si è festeggiata la Resistenza, eccetera. Lo divide moltissimo perché ci viene richiesto di far parte di un'organizzazione militare che è la NATO. C'è una discussione che, per esempio, nel Parlamento italiano genera uno scontro che oggi nessuno quasi ricorda più, uno scontro epocale. I comunisti non erano d'accordo, i socialisti non erano d'accordo, i dossettiani non erano d'accordo, i cattolici non erano di sinistra, non erano di sinistra, democratici, non erano d'accordo, quindi si arriva a una votazione parlamentare che alcuni di voi forse ricorderanno, che è una votazione di quelle un po' berlusconiane, cioè siccome mancano i numeri, cioè qualcuno passa da una formazione o un'altra, si crea una maggioranza d'occasione, su quella maggioranza l'Italia entra a far parte della NATO. Nel 1954 questo paese fa degli accordi con gli Stati Uniti, che non sono quelli della NATO, che normalmente non si discutono in questo paese, sono accordi segreti, si dice, però sono degli accordi precisi, accordi che dicono che gli Stati Uniti in Italia possono avere quattro basi, quattro luoghi che sono extraterritoriali. Vale a dire, su quello che si fa in quei luoghi o che si fa a partire da quei luoghi, sono loro che decidono. Per esempio, negli ultimi tempi una nave russa è stata affondata da dei droni che sono partiti da una di queste quattro basi. Allora l'Italia non c'entra niente, perché queste basi sono in Italia, ma sono statunitensi. L'Italia non ha nessuna possibilità di intervenire e decidere, ha fatto degli accordi, sono degli accordi che sono vigenti. Questo quindi cosa significa? Che questo contesto geopolitico occidentale in realtà è semplicemente un contesto coloniale, un contesto che nell'arco degli anni ha definito una subordinazione dei destini di questo paese ai destini, agli interessi soprattutto di un altro paese, che sono gli Stati Uniti. Questa è una prima dinamica che oggi noi vediamo, diciamo, con sgomento per le implicazioni che ha di qui a dopodomani, ma che se avessimo fatto mente locale a cosa stava succedendo in Italia nel corso degli anni, non solo su questo terreno degli accordi, ma semplicemente sul terreno dello sviluppo industriale, avremmo visto molto molto bene negli anni 60. Negli anni 60, voglio ricordarlo perché insomma non se ne parla molto in Italia, lo sviluppo post bellico, benché diciamo stimolato dai fondi del piano Marshall, no? Aveva raggiunto un livello che l'industria, per esempio, elettromeccanica, possiamo dire che era lo sviluppo più avanzato che c'era sul pianeta. In Italia avevamo un'azienda come Olivetti, che era la punta diamante dello sviluppo tecnologico, no? Dello sviluppo tecnologico più alto che ci fosse in tutto il pianeta. L'Olivetti nel 60 si presentò con un prodotto che era il primo calcolatore elettronico a transistor, no? Mentre ancora IBM, che forse era fatta alle ossa durante il nazismo, si era fatta alle ossa organizzando i campi di concentramento, organizzando i trasporti della dittatura hitleriana, appunto, che aveva anche guadagnato l'Aquila d'Oro, che è una medaglia prestigiosa che Hitler dava, diciamo, agli industriali che maggiormente si dimostravano amici del loro percorso. Quindi, cioè, avevamo aziende che pure erano state dalla parte dei dominanti fino a quel momento, che si muovevano nel settore elettromeccanico, quindi schede perforate, tutte queste cose, che però tecnologicamente non avevano, diciamo, l'intuizione, lo sviluppo, la tecnologia che questo paese è riuscito a mettere in piedi. Sappiamo benissimo tutti come è andata a finire, anche se tutti lo abbiamo un po' dimenticato. Adriano Olivetti fu trovato morto sul treno che andava da Milano in Svizzera, dove aveva un incontro di lavoro, stranamente in un vagone dove viaggiava solo lui, non venne fatta nessuna autopsia sul suo corpo e venne seppellito. Subito dopo venne seppellito Mario Ciù, ricordo il suo nome perché non è così famoso, ma era un grandissimo ingegnere elettronico che si era formato in un'università cinese di origine, si era poi specializzato università americane, che era la punta di diamante della ricerca del passaggio dall'elettromeccanica all'elettronica. Fu appunto Mario Ciù che, sulla base di un grande gruppo di studio che cooperò con l'Università di Pisa, mise in piedi questo grande, diciamo, risultato della tecnologia avanzata e che venne presentato. Questo è il punto che voglio mettere in evidenza, insieme a Mosca e a New York. Ora, Olivetti veniva dalla Resistenza e quindi non aveva l'idea che l'Italia fosse una colonia degli Stati Uniti. Aveva l'Italia che fosse un l'idea che l'Italia fosse un paese che aveva lottato per, diciamo, liberarsi dal nazifascismo, si apriva a un'esperienza democratica, cercava di andare avanti e cercava di offrirsi al mondo, che in quel mondo, che in quel momento aveva l'Unione Sovietica e aveva gli Stati Uniti, ma c'era anche l'Unione Sovietica, quindi il suo prodotto lo andò a presentare a Mosca e lo andò a presentare alla Fiera delle Tecnologie di New York. Un grande risultato in entrambi i mondi. E proprio questo segnò la sua fine, proprio questa apertura al mondo, che era, diciamo, anche un'apertura interna a questo paese. Pensate che Olivetti aveva una regola interna in quegli anni che diceva che il massimo dirigente non poteva avere un salario superiore di 20 volte all'ultimo lavoratore di quell'azienda. Quindi eravamo sì in un contesto capitalistico, ma anche in un contesto che, essendo uscito da anni anche di discussioni, di resistenza e di intelligenza sociale, si interrogava anche su quali dovevano essere i rapporti interni al mondo del lavoro, quali dovevano essere le regole, diciamo, di uno sviluppo industriale dentro un paese e quali dovevano, quali invece no. Bene, tutto ciò si concluse nel 1960 con la morte, ancora oggi irrisolta, di Adriano Olivetti, con la morte di Mario Ciù, con la vendita del settore elettronico, non più elettromeccanico, elettronico dell'Olivetti alla General Electric. Quindi nel 1960 ecco che si chiarisce molto bene il significato della parola capitalismo in un contesto coloniale. Ed è un significato che dice: signori, non fatevi delle strane idee, cioè il vostro sviluppo, no, non può che andare nella direzione che noi decidiamo. E quindi, se questa tecnologia diciamo così, avanzata deve esistere, questa ce la prendiamo noi. E voi gli fate l'elettromeccanica, cioè è stata un divenimento. Inizia un percorso che è tipico del modo di produzione capitalistica, un discorso di economia differenziata, di economia in cui un paese prende il sopravvento, diciamo, progressivo sugli altri, li mette sotto di sé, li funzionalizza per andare così. Quindi abbiamo già due parametri, uno militare, lo dicevo prima, uno industriale, e poi ne abbiamo uno che arriva fino ad oggi, lo sviluppo tecnologico progressivamente cambia il mondo. Ed ecco che allora il capitalismo elettromeccanico, eccetera, che noi conoscevamo, cioè tu hai fatto un riferimento che è molto importante, noi siamo cresciuti anni 50, 60, 70, 80, dentro un capitalismo che era un capitalismo che non poteva andare oltre un certo livello. Io in quegli anni mi sono trovato per fortuna a Milano e abbiamo fatto un lavoro con i tecnici dell'IBM, no? Che questa idea ce l'avevano chiarissima, ce l'avevano talmente chiara che dicevano: ma che cavolo ci stiamo a fare noi in Italia? Cioè, voglio dire, stiamo a fare semplicemente i lavori di servizio di un IBM, no, che è in mano tutto, ricerca, eccetera, che non consente qui di fare nient'altro che sia il selvaggio. Allora, questo non è un fatto nuovo, questo è un fatto che si è progressivamente sviluppato. Negli anni Ottanta questo sviluppo ha un significato che, diciamo, raggiunge un risultato che oggi ci è più chiaro a tutti quanti. Queste tecnologie elettroniche, no, progressivamente generano un livello tecnologico che dice: boh, si tratta di passare da una forma di capitalismo, che del capitalismo industriale, a una forma di capitalismo che viene chiamata capitalismo digitale. Digitale perché? Perché invece di utilizzare le vecchie modalità di funzionamento delle macchine, di funzionamento del rapporto tra le macchine e gli umani, è possibile usare, diciamo così, delle reti di informazione che mettono insieme le macchine, le fanno lavorare in una maniera nuova. Ed è quel passaggio che progressivamente abbiamo visto tutti quanti con nuovi tipi di tecnologie, dai frigoriferi alle lavatrici, cioè prima i beni di consumo, poi progressivamente con l'entrata in campo di una cosa che adesso avete in tasca quanti, cioè, no? Che è uno smartphone, è un tipo di tecnologia che però cambia completamente la vita sociale. La cambia perché quella tecnologia funziona se c'è un sistema di reti che la organizza. E questo sistema di reti è quello che l'unico che c'è, è quello che si chiama internet, è una rete totalmente gestita, controllata, diciamo così, organizzata e utilizzata dagli Stati Uniti, non è che c'è qualcun altro che fa. Se voi volete proprio fare mente locale, pensate alle 5 più grandi aziende del mondo che hanno in mano 5 miliardi di persone, i nomi sono molto semplici: Google, Amazon, Microsoft, sì, anche Apple è, diciamo così, è la pecora nera della famiglia. È molto interessante questa osservazione, perché Apple è l'unica azienda, per esempio, americana che in questo momento, non essendo molto soddisfatta di come vanno le cose, non ha ancora fatto un prodotto di intelligenza artificiale suo, e lo sta facendo in Cina direttamente con una. Sta facendo la stessa operazione di Olivetti, dicendo che mi devo fermare in una parte del mondo, quando quella parte del mondo oggi è totalmente in mano a un insieme di aziende che hanno appunto i nomi che dicevo prima, più Microsoft e Facebook, diciamo così, almeno facciamo il quadro completo. Questo, diciamo così, pool di aziende, però, non è un pool di aziende che produce solamente per dire, tu hai usato una metafora, controllo sociale, ma magari fosse così. Questo pool di aziende in mano è esattamente quello che sta succedendo in Palestina, in Ucraina, in qualunque smartphone che noi abbiamo in tasca, no? Sta riorganizzando la vita complessiva, sociale, economica e militare dell'intero contesto geopolitico. Allora, questo ci pone una serie di problemi perché, come dicono i tecnici della rete, no? Questo ha trasformato i cittadini in quello che loro chiamano in persone cibernetiche. Vale a dire, li ha trasformati in cittadini, sì, del loro Stato, ma nello stesso tempo cittadini ibridati con un dispositivo che li mette in relazione col mondo, con la rete, col mondo della rete, un mondo che oggi organizza più di 5 miliardi di persone per quelli che riguarda il contesto occidentale e che li organizza in pace, in guerra, nel mondo del lavoro, nel mondo dello studio, li organizza in tutti i modi possibili. Vi faccio un esempio per far capire bene cosa intendo dire. Quando noi leggiamo che Gaza viene bombardata, no? Come abbiamo visto, leggiamo sì un fatto di guerra che chiama in causa lo Stato di Israele e la popolazione palestinese. Quello è il fenomeno. Ma se io vado a vedere quel bombardamento, non trovo affatto uno Stato di Israele in sé, trovo per esempio Facebook, lo trovo fino in fondo, perché trovo che la tecnologia attraverso la quale sono stati costruiti gli obiettivi, no, è una tecnologia che si chiama WhatsApp, che utilizzate voi tutti i giorni, è attraverso un dispositivo di intelligenza artificiale che ha lavorato su tutti i gruppi WhatsApp che negli ultimi anni sono stati costruiti nell'area, che ha messo insieme le reti, ha etichettato ciascun, diciamo così, nemico, vale a dire ciascun islamico, ciascun appartenente a Hamas, ciascun palestinese, li ha semplicemente, diciamo così, articolati in un cloud che è Google, perché gli israeliani non ce l'hanno, cioè sono, perché sono così legati agli Stati Uniti, perché queste tecnologie sono incrociate, possono lavorare le macchine che bombardano, perché una struttura, le macchine che bombardano hanno poi un nome, diamogli proprio Hasbora, è una tecnologia militare d'attacco. Ma Hasbora, che è una tecnologia militare d'attacco, esiste perché c'è un cloud che ha tutte le informazioni che in tempo reale sa dirti dov'è quel telefonino. Sa dirti quel telefonino è qui in questo momento, è là un'ora prima e più sarà prima quando si sposta. Lavora in tempo reale, quindi sa benissimo dove può colpire. Ed ecco che allora viene fuori un attacco militare fondato sul lavoro che è partito nel 2021, quindi che ha 4 anni di lavoro alla schiena, che ha gestito, quindi non solo come sorveglianza, magari, che ha gestito semplicemente le persone cibernetiche, le quali non possono non essere persone cibernetiche perché, per come ci hanno messo oggi nei contesti di vita, noi non possiamo non avere quello. C'è un esempio che mi guarda come sensibile alle foglie, sono una casa editrice, un gruppo di ricerca, se non lavorassimo con il computer non esiste nulla sufficiente e potremmo esistere chissà come. Usiamo il computer la mattina sera, abbiamo gli smartphone come tutti. Quindi io non è un discorso, guardate bene, tecnofobo, ci mancherebbe il mondo di oggi questo, ma è un discorso che dice proprio perché questo è il mondo, guardiamo bene come è fatto, perché se non capiamo come è fatto, non capiamo come noi stiamo, diciamo, contribuendo alla nostra sostanza, come stiamo contribuendo a farci. Ed è il secondo processo che mi interessa mettere in evidenza, che è quello da cui prende anche il titolo, il libro di cui parliamo questa sera, che è sovraimplicazione. Cosa vuol dire sovraimplicazione? Vuol dire che noi viviamo la nostra vita e quindi ci implichiamo a vicenda, ci innamoriamo, lavoriamo, ci arrabbiamo. Questa è la vita di tutti i giorni, in cui siamo implicati, perché ci siamo da una parte, da là, siamo nella vita di relazione. Ma tutto ciò oggi non funziona più semplicemente così, perché se per esempio io voglio prendere un treno per venire qui, devo andare sulle ferrovie dello Stato, cioè pagare con una carta di credito, comprando il biglietto, se no devo perdere 4 ore a Roma per fare il biglietto. Quindi lo faccio attraverso questo. Come dire, c'è la memoria dei miei viaggi, è tutta in internet. Quando io non mi ricordo più la data di un viaggio, no, non ho neanche bisogno di andare a vedere la mia agenda, digito semplicemente in Italia o in Italia, e mi dice guarda che ho fatto questi viaggi il giorno tale, il giorno tale, altro, e tutto, ma mi dà tutte le informazioni su ciò che io ho fatto. Quindi la dimensione di contesto obbligante è una dimensione che mi fa dire insieme, beh, qui non mi soddisfa l'idea di dire beh, sono sorvegliato. Non è vero, non è una sorveglianza in sé questa. Questa è una posizione strutturale, è una dimensione assolutamente strutturale della mia vita. Non è che qualcuno viene sorvegliato, nessuno viene sorvegliato. Tutti però lasciano traccia di tutto. E a quel punto il problema della sorveglianza diventa quello che dicevo prima, diventa su Israele, o sull'Ucraina, o sul Sudan, la Libia, guarda, assolutamente tutto il mondo funziona, diventa che un'emergenza particolare d'area, per qualche ragione, no? Fa sì che scatti, che tutte queste informazioni immediatamente riacchiappate nell'arco di un millesimo di secondo, molto meno di un millesimo di secondo, e in tempo reale utilizzate da macchine che possono essere militari o di altro tipo. Perché è importante capire questo? Perché quello che sta succedendo oggi a Gaza, domani può succedere a Napoli. Punto. Non è che ci vuole qualche altro apparato per costruire quel dispositivo. Ci vuole proprio niente. Quello c'è. Quello che determina il fatto che scatti o meno è un evento sociale. Per esempio, nel caso della Palestina è stato un evento che ha fatto sì che una resistenza che anche viene svolta da anni e anni e anni facesse scattare un dispositivo di altro interesse, di altro genere, molto legato, no? Non alla dimensione Israele-Palestina, guardate bene, ma legato alla dimensione Israele-mondo, vale a dire che Israele è oggi, diciamo così, una grande azienda che attraverso le sue azioni militari, no, produce dispositivi che vende in tutto il mondo. E se voi andate su internet avrete la anche triste, tragica, anche triste proprio, sorpresa di vedere come queste macchine di cui vi sto parlando vengano promosse dalle aziende che le producono dicendo ai clienti guardate che sono testate sul campo, guardate che funzionano, le abbiamo usate qui e là. Il primo uso di questa macchina che hanno utilizzato su Gaza è del 21, del 2021. Non è una novità tecnologica, una novità d'altro genere. Sovraimplicazione vuol dire proprio questo. Vuol dire che noi questa cosa che io vi sto dicendo la leggiamo tutti i giorni sui giornali, perché ce la dice il governo, ce la dice l'Europa, ci dice, ah, qui bisogna produrre armi, signori, se vogliamo andare avanti, qui abbiamo bisogno di Abbiamo la Leonardo, che è un'azienda fiore all'occhiello dell'Italia, l'azienda che produce più armi in tutta l'Europa, diciamo il punto di riferimento, eccetera. Ma Leonardo, se voi andate a vedere, che anche quella di cui il nostro ministro della difesa è stato per anni il lobbista, no? È anche un'azienda che si serve per tutti i suoi lavori di Microsoft. Non è che è un'azienda italiana, perché l'Italia non ha quella tecnologia ce l'ha Microsoft. Allora ecco, sovraimplicazione significa che noi siamo dentro un sistema la cui complessità, no, mette in gioco e in discussione le idee che noi abbiamo di territorio, politica, confini, perché ci accorgiamo, per esempio, che quando parliamo di queste tecnologie già questo ci rimanda, mettiamo, agli Stati Uniti, ma se io guardo più in profondità ci rimanda un insieme di aziende, e se guardo ancora più in profondità, come vi invito a fare, vedrò che queste aziende sono anche delle aree politiche. Se dico Microsoft dico Biden, no? Ma se dico i satelliti di Starlink dico Musk, e se dico Musk dico Trump. Vale a dire, non siamo più dentro un mondo che si lascia acchiappare, no, nelle diciamo determinazioni più semplici del capitalismo industriale, neanche in quelle del capitalismo digitale. Siamo entrati in quello, per questo ho fatto, diciamo, questo lavoro più di ricerca sulle sovraimplicazioni, perché il passaggio al capitalismo cibernetico ci obbliga a misurarci con queste dimensioni del potere, se vogliamo affrontarlo, perché nessuno ci obbliga, cioè voglio dire, qui è anche un mondo che, lo dicevo all'inizio, può funzionare benissimo con la logica tipica del fascismo di un tempo, tengo famiglia, quindi cioè, signori, lasciatemi perdere. Ma è importante invece oggi prenderne atto, perché parlavo prima, quando sono arrivato con qualcuno qui, che faceva un'osservazione molto acuta, molto intelligente, diceva, non è più come i nostri tempi, io sono un vecchietto anch'io, no? Non è più come i nostri tempi, adesso per dire c'è una nuova generazione di giovani, no? In effetti c'è una nuova generazione di giovani, ma anche di lavoratori. Quando parlo di Google non parlo solo di quell'azienda che fa quelle cose che ho detto, parlo anche di un'azienda che dal 2021 ha della gente che mette a repentaglio il suo destino. Gli ingegneri di Google che si sono opposti a vari tipi di progetti, tra cui l'ultimo, cioè che è un progetto diciamo di guerra bellico, no? Hanno perso tutti il lavoro, però hanno fatto molto durissimo. E abbiamo oggi, possiamo dire, centinaia di scienziati, di tecnici che hanno messo in gioco il loro lavoro, ma anche di tecnici, diciamo, quelli che scrivono le linee di codice, perché si è creata una nuova classe del mondo del lavoro. Una classe del mondo del lavoro che è transnazionale, ma per una semplice ragione proprio tecnica. Voi pensate, ho fatto un lavoro con i tecnici delle 10 più grosse aziende informatiche italiane, un libro che abbiamo pubblicato, un cantiere che abbiamo pubblicato con il titolo Dietro il mito dell'informatica. Allora, queste 10 più grosse aziende informatiche che lavorano in Italia sono tutte statunitensi, salvo una che è giapponese. Boh, cioè, qual è il problema che loro dicevano? Vabbè, queste aziende vengono qua, si insegnano, partecipano ai bandi per, poniamo, molto interessanti, per informatizzare la banca dei dati, no? Per vincere il bando cosa fanno? Fanno quella cosa che tutti conosciamo, cioè presentano dei progetti, no? Sta, cioè, vuoi che ti metta in piedi col mio nome una struttura che funziona? Guarda, te la do per X dollari, che sono molto, ma molto meno di quanto chi in quattro ti farebbe pagare. Vincono quando? Perché hanno sia il nome che un progetto imbattibile, perché i costi sono talmente bassi. E dopodiché chi prendono a lavorare? C'è un modo di dire tra i tecnici, boh, ci compriamo 100 indiani, ci compriamo 25 vietnamiti. Porca miseria, entro dopodomani dobbiamo finire quel pezzo, se no non stiamo nel bando. Ma non ci sono sempre i coreani, su internet, dalla mattina alla sera, mi compro chi mi scrive il codice di qui a dopodomani. Quanto lo pago? In Italia lo pago 10, beh, io pago 1, o addirittura 0,50, niente. Mi rivolgo al mercato mondiale e chi lavora in questi territori sa benissimo che nulla è più precario del mondo, diciamo, delle tecnologie avanzate oggi, perché in quel mondo abbiamo sì le persone come diciamo i massimi esperti di quei territori che sono pagati, pensate, in OpenAI, l'azienda in informatica dell'intelligenza artificiale più avanzata, ci sia 900.000 euro al mese. Abbiamo anche queste figure qui, no? Che si stanno scannando, se avete seguito un po' per mille ragioni. Ma abbiamo anche quelli che non guadagnano neanche 900 euro al mese. E oggi abbiamo un mercato del lavoro che non è più totalmente italiano, che non è più minimamente europeo, che non è più grande come il contesto geopolitico in cui si opera. Dico come il contesto geopolitico perché se esci di lì sei una spia, o se esci di lì sei uno che non lavorerà mai più. Gli ultimi 19 ingegneri di Google che sono stati l'altro ieri licenziati per le posizioni che hanno preso rispetto alle tecnologie, a non fornire tecnologie belliche a Israele, perché è nato un genocidio e non si vuole partecipare a un genocidio, gli è stato detto a questi ingegneri: signori, voi siete licenziati, ma ricordatevelo bene che non lavorerete più, mai più, in nessuna azienda informatica. Cioè, è un mondo sfidato, è un mondo crudele, è un mondo in cui uno dice tengo famiglia e sta vivo. Allora è anche un mondo che è costruito sulla paura. È anche un mondo che è costruito sulla paura, esattamente come succedeva ai tempi del nazismo, ai tempi del fascismo. Voi sapete benissimo, per aver letto nella storia, che quando un sistema riesce a far paura a chi ci vive, no? E beh, sì, lo tiene sotto il suo controllo, no? Ma lo tiene anche fermo. L'Italia sotto il fascismo, no, ad un certo punto ha avuto solo 12 insegnanti in tutta l'università italiana che hanno detto no. 12. Tutti gli altri hanno detto vabbè sì, però, ma forse meglio che stia zitto. La paura ha vinto, non l'ideologia, ha vinto la paura. Ed è quello che in questo momento sta avvenendo a livello mondiale. Una delle forme di sovraimplicazione più grossa è metterci nella condizione di dire anche nella nostra vita quotidiana, va bene, se io esco da un dispositivo WhatsApp nel mondo del lavoro, non lavoro più semplicemente un operatore sociale oggi, si trova a dover lavorare, coordinarsi con i suoi colleghi, fa un gruppo WhatsApp, non si va più a cercare l'orario, il posto, eccetera, perché non ci sono neanche più posti. Ecco, questo è il, diciamo così, è una delle forme di sovraimplicazione che si organizzano e che si sviluppano. L'ultima di cui vi voglio un po' solo far cenno, che è quella che voi conoscete più come intelligenza artificiale, e che viene venduta sul mercato, diciamo, dell'immaginario come intelligenza artificiale generativa, ChatGPT e tutte queste cose qua. E sì, esistono anche macchinette di quel genere lì, che sono delle macchine, diciamo, probabilistico-statistiche, fondate su modelli linguistici, avremmo un po' visto, che lavorano e si danno da fare raccogliendo infinite informazioni su un'unica fonte, no? Per casomai utilizzare le sue stesse parole per dargli le risposte, no? È un giochetto da ragazzi, per esempio, anni fa, quest'idea, anche molto più rozzo, no? Veniva fatto con i giornali sportivi in Italia. C'è un grande linguista che si chiama Tullio De Mauro, che aveva fatto un dizionario di frequenza. L'Italia ha più di 100.000 parole, qui se si usano tutte, casomai, diciamo, pochi che riescono a capire bene il significato di tutte. Però se io riduco, diciamo così, l'italiano standard da 500 parole, no? Beh, praticamente il 98% della popolazione, cioè, ci sta dentro, capisce perfettamente cosa dico. E allora, se un giornalista mi scrive un articolo che ha 800 parole, lo passo al setaccio di un dizionario di frequenza, tolgo le parole e metto dei sinonimi, cioè ricostruisco la frase, cambio l'aggettivo, cioè faccio in qualche modo per cui si stia dentro le 500 parole. E perché era così importante? Perché in Italia la maggior parte dei cittadini negli anni passati casomai compravano i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, tutto sport, erano i giornali più venduti. E dunque occorreva che gli articoli con cui venivano scritti quei giornali fossero scritti bene, in un italiano chiaro, diciamo, fosse anche, come dire, una scuola di lingua elementare, ma che tutti potevano capire e conoscere. Oggi questo lo fanno i dizionari di frequenza che vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale e che può tararli, no? Sul patrimonio linguistico di ciascun utilizzatore. Io so che tu usi 800 parole, lui usa 3500. Allora, se tu mi chiedi, ma Garibaldi, insomma, chi ha sposato, insomma, chi era, io ti posso rispondere con 2000 parole, con 3000 parole, utilizzando un dizionario, come dire, più ricco o uno più povero, anche con 400 parole. Non cambio la qualità della mia risposta, cambio la modalità della mia risposta. Siccome questo lo fanno macchine e non più umani, ecco, questo ci mette dentro una situazione che ci dà anche molta soddisfazione, perché in qualche misura facciamo delle domande, otteniamo delle risposte, le risposte. È più semplice ottenerle per questa via che non per la via che fin qui, per esempio, i motori di ricerca seguivano. Ancora, esempio, su Google e ti dà una sfilza di 10.000 rimandi, ma poi devi andarti a cercare tu le risposte, no? Quindi leggere quell'articolo, in un caso è scritto in giapponese, l'altro è scritto in inglese, ti danno il translate, ma vabbè, insomma, è sempre una fatica. Perché non invece io faccio la domanda a parole e ottengo una risposta a parole, immediata, chiara, semplice. Quindi è la confezione di una modalità di risposta a domande che però funziona su un presupposto capitalistico, o meglio, su un presupposto di area geopolitica, vale a dire su un presupposto di allineamento della risposta a quello che è l'interesse del contesto geopolitico. Provate a utilizzare parole come in certi momenti i curdi, o in altri momenti Hamas, o in altri momenti qualunque altra cosa vi passi in mente che fa parte di scontro, cioè vedete che diciamo oltre al dizionario di frequenza c'è anche un dizionario di censura. Ci sono parole che fanno chiudere immediatamente i vari account. Sono stati chiusi alcuni milioni di account di Facebook negli ultimi tempi, di persone vere, di persone false, e chi lo sa? Oggi di questi 5 miliardi, vi faccio due domande: quante sono le persone vive e quante sono le persone vere? Io conosco molte persone che avevano un account, ma anche famose in Italia, non voglio fare nulla, ma insomma, che sono morte nel frattempo, no? Ma che hanno ancora l'account. E se voi andate in quell'account, vi rispondono, perché hanno un gestore dell'account che in qualche misura fa così. Ma c'è oggi, c'è delle aziende che producono un gestore artificiale, voglio dire, un gestore che si è immagazzinato tutte le parole di quella persona, sa come ragionava, le sue letture, eccetera, e gli risponde con pertinenza, come se fosse viva quella persona. Ma sono alcuni, molti milioni, le persone, i morti che scrivono e che hanno accanto. Ora, pensate quante operazioni si possono fare anche di tipo politico con queste operazioni. Poi ci sono gli account di persone che non esistono. È pieno internet di account di persone. Poi ci sono gli account delle persone, ma naturalmente molti di voi anche, che hanno 5 account, 10, cioè ne hanno uno per la famiglia, uno per la politica, uno per il mondo del lavoro. Casomai su internet, se vogliono dire cose politiche, le dicono con un account, e se vogliono dire invece cose di lavoro, un altro, e vale questo anche per WhatsApp, ovviamente. Ora però tutta questa molteplicità che un po' stordisce alle macchine, diciamo, che gestiscono il sistema e i sottosistemi, non sfugge affatto. Queste macchine sanno perfettamente tutte queste cose, e sanno perfettamente queste cose, tanto che le utilizzano e le gestiscono a varie finalità. Di cui il fatto che la sovraimplicazione di internet è oggi un problema che ci riguarda, per questa ragione. Poi c'è una seconda ragione, che è una delle sovraimplicazioni che a me inquietano di più, anche per questo ho voluto chiudere questo libro con un capitolo su quella che è una mutazione antropologica che è in corso. Una mutazione antropologica che è legata proprio a ciò che noi facciamo. Vi faccio un esempio. Se io utilizzo, come faccio, quando vado in una città che non conosco, il GPS, per esempio, o Google Map, perché non conosco le vie, devo andare in un certo posto, mi affido ad una macchina. La macchina, satellite, centro di guida, perfettamente mi porta al numero esatto del posto. Mettiamo che funzioni bene, ma non funzionano tutte abbastanza bene. Bon, questo progressivamente cosa fa di me? Una persona che perde l'interesse a fare uno sforzo per capire i territori, perché dice, perché lo devo fare? È come se devo fare un'operazione matematica complessa, vado sulla calcolatrice, sto lì a sforzarmi di ricordarmi tutte le norme, le regole di quel calcolo, no? Cioè mi porta progressivamente a delegare alla macchina. Da un punto di vista propriamente neurologico, io lavoro con anche un neurologo molto noto, che è il lavoro sull'intelligenza artificiale, che è Miguel Bernasayag, una figura importante della storia e della lotta contro la dittatura argentina, ma al di là di questo suo trascorso degli anni passati, oggi docente, ricercatore, che lavora in Francia, pubblica molti libri tradotti anche in Italia, lui però è anche un neurologo e lavora su un problema che è fondamentale nel quadro delle sovraimplicazioni, che è l'implicazione del rapporto tra gli organismi viventi e gli aggregati tecnologici. Le macchine sono aggregati tecnologici che funzionano secondo linguaggi, secondo regole, no? Che sono tutte, diciamo, molto rigide, che sono dispositivi tecnoscientifici, quindi matematici, statistici, probabilistici, e di seguito. Cioè utilizzano dispositivi e offrono risposte utilizzando questo tipo di ragione, una ragione che negli anni 60, per esempio, importanti figure del mondo culturale europeo erano Horkheimer, Adorno, la scuola di Francoforte, studiato molto e che ci hanno restituito già alla fine degli anni 60, mettendoci di fronte alla contraddizione del capitalismo di quegli anni, che è la contraddizione tra la ragione tecnica, che sta tecnoscientifica, che sta dietro i dispositivi scientifici, un microscopio, un qualunque tipo di strumento, cioè una ragione tecnoscientifica funziona secondo precisi dispositivi, e diciamo l'irrazionalità sociale dei sistemi in cui noi viviamo. Quando dicevamo capitalismo, stiamo dicendo che è un sistema scientifico, stiamo dicendo che è un sistema conosciuto, funziona sullo scambio ineguale, cioè lo scambio ineguale è l'algoritmo per cui vai a lavorare, produci 100, se ne viene restituito 20 di quel che produci. Questo è il capitalismo, è sempre stato questo il dispositivo di sfruttamento che si è naturalizzato, ma sul piano sociale è un dispositivo irrazionale. Perché mai un cittadino dovrebbe produrre 100 e ottenere in cambio 20? Succede questo semplicemente perché non riesce a cambiare il sistema. Marx lo ha spiegato dall'Ottocento, questo non solo Marx, persino i sociologi borghesi, bene, è un sistema irrazionale che però è diventato il sistema dominante oggi in tutto il contesto geopolitico occidentale, però a parlare degli altri che non sono oggetto di interesse qua, no? Bon, tra la ragione tecnica, quindi della macchina, e la ragione di irrazionalità del sistema c'è un conflitto, una contraddizione. E questo conflitto, questa contraddizione, come lo gestiscono le aziende? Beh, nascondendo lo scopo. Qual è lo scopo dell'intelligenza artificiale? Favorire le relazioni tra le persone e la cultura. Cioè, in realtà lo scopo non è quello, è diciamo, l'immaginario che viene venduto insieme alla macchina. Ma la macchina ha due altri obiettivi molto precisi, che è l'allineamento delle persone a quelli che sono gli interessi del sistema geopolitico in generale e quello che è il profitto delle aziende, diciamo così, che producono gli strumenti. Non dimentichiamoci che le aziende che io vi ho nominato, no, non sono solo le cinque più importanti aziende del contesto geopolitico occidentale da un punto di vista tecnoscientifico, sono le aziende più ricche del mondo. Quando io vi dico Elon Musk, vi dico l'uomo più ricco del mondo. Quando vi dico Bezos, vi dico il secondo uomo più ricco del mondo. Ora Bezos significa Amazon, che è quello a cui io stesso ogni tanto ricorro, devo comprare una roba, ma porca miseria, non la trovo in giro, vado su Amazon e il giorno dopo c'è a casa. Però Amazon, no? Diciamo, mi offre la sua razionalità di mercato, mi offre il suo mercato, no, per diventare un mercato sempre più forte. Amazon risponde a me in quel modo perché deve rispondere al consiglio di amministrazione trimestrale che gli dice: uè, i tuoi profitti quanto sono saliti? Chi investe, chi ha titoli in borsa, forse siamo noi le persone più ricche del mondo che fanno fruttare i loro soldi con titoli di borsa, no? Ha interesse che quei titoli gli fruttino. Quando Facebook ha buttato lì la tecnologia del metaverso, c'è stato un tonfo in borsa gigantesco, non è stato capito, ha dovuto correre ai ripari di brutto, perché perdevano costantemente investitori a favore, casomai, di Twitter, casomai di tutti i TikTok e tutti gli altri concorrenti. Siamo in un mondo capitalistico dove queste aziende fanno questi calcoli. Fine mese, quanto è salito il mio numero di investitori, quanti soldi in più ciò. Questa è la razionalità di sistema. E dentro questa razionalità di sistema funziona anche la razionalità tecnica, che, e questo è quello che fa spesso diciamo degenerare le discussioni in vabbè, ma mica sarei contro la tecnologia, cioè no, la tecnologia è neutra. Ebbene, cioè io mi sento proprio tranquillo nel dire che questa è una grandissima menzogna, non è vero. Perché la tecnologia e la scienza in sé è vero che hanno dispositivi, diciamo così, di razionalità tecnico-scientifica. Questo è assolutamente vero. Ma non esistono in sé questi. Non esiste la scienza in sé. Non esiste la tecnologia in sé. Vi sfido chiunque a dirmi in sé c'è da qualche parte. Non c'è. C'è in OpenAI, c'è in Microsoft, c'è in Cina, c'è in Google, c'è da qualche parte nel mondo. Esiste in una forma storica la scienza, ed esiste in un laboratorio che esiste da qualche parte nel mondo quella scienza. E allora, siccome esiste lì, esiste in una maniera sovraimplicata. La sovraimplicazione è, diciamo, quella modalità storico-sociale che curva a sé, no, anche le forme di razionalità scientifica e razionalità tecnica, tant'è che se voi non siete le persone più ricche del mondo potranno esistere le tecnologie migliori del mondo, ma se avete un sistema di salute lo comprate, se avete i soldi, se no se non avete i soldi, tanti saluti, non vi viene passato, diciamo, dalla mutua, come si diceva una volta, dal sistema, diciamo, sanitario pubblico, per semplice ragione che il sistema sanitario pubblico risponde alla logica del sistema politico dentro il quale è inserito, e questo lo sappiamo. Questo è il significato del lavoro che sto facendo. Il lavoro andrà avanti perché ovviamente lo sviluppo sia delle tecnologie di cui stiamo parlando, delle tecnoscienze, oggi va a una velocità strepitosa, sia perché c'è un fattore di incoraggiamento per farlo oggi straordinario, che sono gli studenti tecnici e persino oggi gli ingegneri e persino i ricercatori, e ne abbiamo una prova anche in Italia, avete visto che negli ultimi mesi c'è stato in tutte le università italiane vastissimo moto di rivolta di studenti, ricercatori, precari e anche di docenti che hanno posto un problema che è quello che vi ho detto io, che nesso ci deve essere tra la ricerca scientifica e l'utilizzo sociale che ne viene fatto. Il problema che hanno posto è che noi non vogliamo che le nostre tecnologie vengano utilizzate a fini bellici, che è il discorso che facciamo prima. Utilizziamo le altre finge, ecco, utilizziamole dentro un interesse che non è quello delle aziende che lo producono. Ecco. E naturalmente guardiamo un po' però anche cosa fanno le aziende, perché se noi abbiamo bisogno di utilizzare WhatsApp per il mondo del lavoro, perché può essere una tecnologia che ci viene comoda, eccetera, abbiamo anche bisogno che questo non venga utilizzato contro di noi. e che in un momento critico diventi lo strumento attraverso il quale noi veniamo abbattuti, casomai semplicemente come danno collaterale. Chiudo con questa formuletta: danno collaterale, ciò che le macchine dell'intelligenza artificiale definiscono il numero di morti per realizzare un obiettivo. Allora, siccome devo buttare giù XY, che è un capo di quella formazione che è la mia nemica, no? Essendo un capo, io posso uccidere anche 25 persone. E rientra dentro uno standard di fattibilità, come dicono queste tecnologie. Significa che 25 persone non valgono niente, non sono umani, non sono più umani. Significa che se noi per caso stiamo vicini a un obiettivo, no? Quell'essere vicino, prossimo, non ha più niente a che vedere con quello che noi chiamiamo prossimità sociale, starci vicino, parlarci, conoscerci, scambiare. Significa semplicemente che possiamo diventare in un contesto leggermente diverso da questo un danno collaterale. Bene, con questo direi, penso di avervi detto il grosso del ragionamento che sta dentro questo libro, e naturalmente sono molto contento se avete voglia di approfondire un po' qualche tema o svilupparlo. Dopo, ma che sentendole veramente lasciano perplessi per come delle apparenti ovvietà poi però hanno un effetto sommatorio, per cui poi alla fine di quello che dici tutte queste ovvietà prese singolarmente poi messe insieme sono una cosa catastrofica. Io vorrei esprimere il mio annichilimento, per cui penso che queste considerazioni hanno veramente un effetto annichilente, perché poi non si vede, non si travede da nessuna parte una contromisura. Beh, io la intravedo nel senso che ho presentato questo libro adesso diversi mesi che è uscito, e soprattutto quello precedente al capitalismo cibernetico, a partire dall'università dove ho studiato, Trento, dove mi hanno invitato gli studenti di Trento, e sono ritornato dopo tantissimi anni, e ho trovato una generazione di persone che erano profondamente interessate a questo discorso, ma veramente in una maniera profonda, perché nella loro università la sociologia aveva preso progressivamente una curvatura, stava prendendo una curvatura di funzionalizzazione all'allineamento. Poi hanno visto subito il nesso tra la loro professione, diciamo, e la funzione, no? Quello che un tempo si diceva, ma ci volete far diventare degli ingegneri sociali? Degli ingegneri della vita sociale? Beh, questa è la domanda che in questo momento si stanno ponendo i ricercatori di Torino, dell'Università di Torino, con la resa pubblica, dicendo noi perché dovremmo allineare oggi? Spiegateci un po'. E questo sta creando un fatto nuovo, cioè un fatto bellissimo, che in questo paese, da Trento a Venezia, dove ieri hanno inaugurato il pedaggio, no? La Smart City, io dedico un capitolo nel libro sulla Smart City che ho costruito perché sono andato invitato dagli studenti di Venezia un anno fa a discutere il capitalismo cibernetico, e ci siamo interessati di quello che poi è diventato progressivamente un progetto di gestione della città. Ma come faccio notare in sovraimplicazione, se io vado a Hebron o a Gerusalemme, quel sistema che c'è a Venezia lo trovo, e c'erano delle precise contorni, forme studiabili e studiate, tant'è che lo racconto come viene fatto. Però posso anche semplicemente andare a Milano o andare a Londra, perché vado a Londra e a Londra spiegatemi se trovate una strada in cui voi non venite, diciamo così, depredati sistematicamente dai nostri dati biometrici. Cioè, una telecamera ogni 10 metri, è vero, a Gerusalemme c'è una ogni 5 metri. Quindi praticamente nessuna persona che fa un giro a Gerusalemme, poniamo che ci vada per motivi religiosi, per motivi storici, è una città che ha a che fare con la tradizione culturale di tutto l'Occidente, uno può andare lì semplicemente perché è interessato a questo. Ma se va lì oggi, tutte le sue impronte biometriche vengono catturate dall'aeroporto fin quando parte. Persino il suo smartphone viene controllato all'aeroporto, persino quello, tutto. E allora, cioè, questo è un problema che diciamo ci getterebbe nello sbigottimento se non avesse nessuno che alza la testa. Ma oggi noi abbiamo veramente, lo dicevo al passato di sfuggita, abbiamo veramente uno scenario incoraggiante, abbiamo molti ricercatori e tecnici che giocano il loro destino su quello, esattamente come hanno fatto negli anni 60 tante persone, cioè in tutta Europa, che di fronte alla guerra del Vietnam si sono paradiate, no? E abbiamo le quattro rettrici, tutte donne, vorrei che fosse ben chiaro questo, delle cinque più grosse università statunitensi, no? Che si sono rifiutate di dare alla commissione del Senato e di dare alle autorità politiche statunitensi i nomi dei docenti e degli studenti che stavano facendo le manifestazioni. Che cosa gli è successo? Le hanno fatte dimettere seduta a stante. Ora pensate che per arrivare a fare la rettrice di Harvard o della IBM, no? Significa che uno si è fatto un mazzo con 5 carte, ma proprio come 5 grattacieli, non solo per abilità tecnica, ma per mediazioni istituzionali, per tutto quello che volete, lo capite immediatamente. Beh, non ci hanno messo un giorno queste donne a dire, vabbè, siamo arrivati a un punto in cui basta, io quei nomi non te li do. E la risposta è stata, bene, si accorge. Fuori da quel posto. Cioè, messo una vita per conquistarlo, hai sputato sangue per stare dentro il mio sistema, e allora nel mio sistema ci stai allineato, ci stai in silenzio, e mi dici chi erano quelle persone, o non me lo dici, vai fuori. Gli ingegneri che sono stati licenziati sono più di 150 di Google negli ultimi tempi. 19 solo l'altro giorno, ma c'è una storia che parte dal 21, eccetera. Sono persone che per arrivare ai punti in cui erano, no? Hanno sfidato i percorsi universitari più complessi che ci sono oggi nel mondo occidentale e le mediazioni più complesse per arrivare a quei posti di potere dove tenete presente che si firmano documenti per essere assunti di completa segretezza, anche perché diciamo così ti giochi tutti i soldi che hai guadagnato più tutti quelli che guadagneranno 10 generazioni se tu vieni meno a una linea di contratto, no? Eppure queste persone lo stanno sfidando, ma perché siamo di fronte a un'enormità tale che penso che la vediamo tutti, questo ci si colpisce. 30.000 persone massacrate in pochi giorni con un sistema di razzi che considera, diciamo così, un danno collaterale quei morti, quei bambini, quelle donne, e qualcosa che noi in Europa non abbiamo visto. La seconda guerra mondiale ci ha fatto vedere cosa poteva essere. Ci ha fatto vedere Dresda, ci ha fatto vedere San Lorenzo, quartiere San Lorenzo di Roma, bombardamenti. Allora c'erano solo gli aerei, i bombardamenti buttavano le bombe in modo indiscriminato. Ci ha fatto vedere Hiroshima e Nagasaki, 200.000 morti, che ve lo ricordate subito, la possibilità di 500.000 nel tempo, che voi sapete bene, oggi tutti gli storici, ma proprio tutti, sono concordi, non servivano affatto alla guerra. La guerra era finita, gli giapponesi l'avevano persa. Sono stati fatti 200.000 morti, no, con Hiroshima e Nagasaki, per dire all'Unione Sovietica: fermati lì e non arrivare fino giù al Giappone, perché il mondo non è tuo. E bisognava dirglielo, secondo gli americani, come dicono gli storici, per una ragione semplice, che era l'Unione Sovietica che era arrivata a liberare i campi di concentramento. C'era un problema politico di tipo strategico, era un problema di tipo strategico. 500.000 persone hanno perso la vita senza sapere perché. Allora siamo di fronte a un crimine che allora, talmente enorme, che allora ha fatto dire a Einstein, nel suo manifesto con Bertrand Russell, ve lo ricordate bene, signori, levatevi dalla testa, c'è proprio scritto, non proprio levatevi dalla testa, ma il significato di questa, l'idea che quando una tecnologia è stata inventata, è stata provata, testata e funziona, non venga più utilizzata poi. Levatevi dalla testa, perché se c'è, verrà utilizzata. E oggi noi siamo esattamente su questo crinale. Siamo esattamente qui. E vediamo anche il peggio. Vediamo che si discute di missili interballistici intercontinentali in cui da un qualunque remoto laboratorio del Texas si può abbattere una città dall'altra parte del mondo. Stiamo vedendo questa cosa qua, dove abbattere una città non è un problema politico di strategia militare, ridotto nel discorso che stiamo facendo, significa che gli umani di quella città vanno meno di 2 picche, cioè sono semplicemente, diciamo così, variabili funzioni che dentro un calcolo possono essere giocate. E io credo che invece questi ingegneri, questi studenti, queste nuove generazioni che anche in questi giorni, anche ieri, si sono in molte città d'Italia, compreso Napoli, sono scesi in piazza in qualche misura per dire, beh, insomma, diamoci un po' una mossa, c'è bisogno di una resistenza a tutto ciò, non solamente un'accettazione passiva. Ci stiano dicendo, interroghiamoci, no, sulle nuove forme che diciamo dello scontro sociale, sulle nuove forme che, per affrontare la paura. La paura non è una roba di cui dobbiamo avere vergogna, la paura è una cosa reale, però bisogna affrontare, diciamo così, cambiamenti sociali quando questi sono ormai diventati impellenti. E questo, secondo me, è un elemento che io vedo con, diciamo, con sollievo, perché devo dirti che quando ho iniziato questa ricerca, sono 6-7 anni fa, diciamo, non vedevo assolutamente con sollievo i primi movimenti di digitalizzazione, le implicazioni che stavano avendo, e per dire quello sviluppo gigantesco che c'è stato in pochissimo tempo della rete di Facebook, eccetera. Oggi noi sappiamo che tutto il movimento palestinese, diciamo degli ultimi tempi, è gestito da Facebook. Lo sappiamo anche perché degli ingegneri di Facebook l'hanno raccontato, per quel sistema di WhatsApp che vi dicevo, che lo sappiamo perché non possono farne meno. Perché se oggi i palestinesi che sono in Cisgiordania non avessero degli smartphone per comunicare, no? Non saprebbero dove andare. Ma sappiamo anche che il governo e lo Stato di Israele comunicano con ciascuno di loro mandandogli dei messaggi su WhatsApp. Dicendo: caro Filippo, cara Giovanna, sei nel quadrante Q26, attenta perché fra l'ora bombardiamo. Spostati nel quadrante Q28. Si sposta nel quadrante Q28 e quadrante Q28. Però questo lo stanno raccontando le persone che resistono, le donne, gli uomini che resistono in quel tipo di città. E vi dicono: io non posso fare meno di uno strumento per comunicare con gli altri, perché sennò non ci sono più. Ma oggi è uno strumento che io uso totalmente in mano, ed è totalmente in mano per un problema che è quello che dicevo prima, tecnico. Internet è un sistema che funziona via cavi. I cavi che vanno in Cisgiordania, che andavano a Gaza, sono gestiti dall'accordo tra il governo israeliano e la Facebook. Soldati di fatto. E questo è lo scenario in cui siamo davanti. Quindi, terrificante per un verso, ma anche, diciamo così, incoraggiante per un altro. E poi dico, io penso che sempre quando le società si sono trovate, diciamo, con le spalle al muro, no? In qualche modo hanno dovuto tirar fuori gli artigli, in qualche modo hanno dovuto capire come fare per sopravvivere, per andare avanti e possibilmente per cambiare le cose in maniera più positiva. Personalmente penso che questo sia l'aspetto che dobbiamo mettere a fondamento del nostro immaginario. Va bene, dai, noi restiamo qui in chiodata. Sì, c'è una domanda. Buonasera, intanto grazie per questa presentazione che andava dal capitalismo industriale a quello cibernetico, veramente preziosa. Sarò rapidissimo, volevo fare solo qualche riflessione. Una proprio sul genocidio in corso, perché in questi giorni si sta parlando di Lavender e altri sistemi, come quelli quando praticamente rientra un combattente a casa, bombardano la casa con le famiglie, eccetera. Quindi diciamo, da quello che ho capito, sono dei sistemi più costosi, mentre in realtà per obiettivi di più basso rango militare, per così dire, loro usano le cosiddette dumb bombs, ossia il contrario delle bombe intelligenti, le bombe stupide, quindi, ma questa era solo una cosa sulla questione sul genocidio a Gaza. Riguardo alla neutralità delle tecnologie, sono d'accordo che le tecnologie non sono neutre, però forse alcune hanno, per così dire, un grado di neutralità maggiore. Secondo me anche la forchetta o il bastone è una tecnologia, mentre invece una telecamera ha un grado di neutralità sicuramente minore, perché è stata, diciamo, studiata con uno scopo preciso. E quindi come attiviste, come militanti, secondo me il problema è cercare di capire come controutilizzare o utilizzare quelle tecnologie per ridurre il grado di faziosità, diciamo, una parola forse non proprio corretta, o se è il caso di non utilizzare proprio certi tipi di tecnologie. E qui mi ricollego l'ultima cosa che volevo dire al discorso sul mutamento antropologico, un mutamento che ci fa dipendere dalla macchina, perché dobbiamo usare il GPS e non sappiamo più leggere una mappa. Ora, anche qui, secondo me, dobbiamo magari cominciare a interrogarci fino a che punto la tecnologia ci può aiutare e quando poi si varca un confine che ci fa diventare dipendenti e fa diminuire anche il nostro grado di sviluppo cognitivo intellettuale. Attenzione, ti ringrazio, sono due punti quelli che tocchi che la ripartina di seguirci per mano nel cuore. Vorrei che fosse molto chiaro che il discorso sulla neutralità, no, è un problema di parole. Non so se è sensibile, ma è proprio un problema di parole, bisogna capire bene come usiamo le parole. Allora, che un'operazione aritmetica, no, sia neutra di per sé, non ci piove, così come un'operazione statistica, così come un calcolo probabilistico, sono tutte tecnologie che noi, un'operazione al cuore, cioè, no? Sono tutte tecnologie che se noi le estraiamo dal contesto storico, diciamo così, ci appaiono neutre, ma se le estraiamo dal contesto storico non esistono. 3 per 2 non esiste in sé, esiste perché a scuola un insegnante ti dice quanto fa 3 per 2. Un matematico ti dà, faccio 3 per 2 per ottenere, cioè nella storia, no? Quello che era un dispositivo che apparentemente è neutro, come una parola può essere, diciamo così, utilizzata in sé però non esiste, non è che esiste una parola in sé, allora quel significato. Quella parola lì, in quel contesto linguistico, acquista un significato, in quel contesto sociale viene utilizzato in quel modo. Quindi questa è la discussione che ha fatto dire, io citavo prima Kant, perché è la figura che ha illustrato meglio questo ragionamento, che ha fatto dire sì, la ragione tecnica, no? Noi la possiamo sicuramente, diciamo, apprezzare in sé, è una delle forme che l'umano ha costruito di coscienza. Ma se noi andiamo nella storia, quella ragione tecnica, poniamo nel 45, viene utilizzata per fare la bomba atomica. Allora, se io la trovo nel laboratorio, sarà pur una ragione tecnica, ma opera all'interno di un contesto che la fa funzionare secondo il suo scopo, non secondo uno scopo astratto. Lo scopo in un contesto capitalistico, in un contesto istituzionalizzato, no? Quindi è in un contesto, diciamo, aziendale, in un contesto quindi a qualunque livello voi vogliate capitalistico, è quel che riguarda tutto il loro guerra, insomma, per parlare di prima, è uno scopo di, diciamo, allineamento al profitto per un verso di allineamento politico, ideologico e immaginario per un altro. Questo è quello che noi storicamente vediamo. Quindi il nostro problema non è essere contro la tecnica, la tecnologia, la ricerca scientifica, ci mancherebbe, ma è lavorare affinché i contesti cambino e sia possibile utilizzare quei dispositivi che siamo riusciti in qualche misura nel corso della storia a mettere a punto, farli funzionare per il benessere sociale, cioè farli funzionare in una logica, diciamo così, di pari diritti, di pari di specie, di una logica di specie, non di una logica, diciamo così, di classe e di classe. Questo è il punto per quel che riguarda il rapporto tra la neutralità tecnologica e, diciamo, la non neutralità dei contesti dentro i quali le tecnologie e le scienze operano. Ed è anche il quadro delle lotte attuali. Gli ingegneri, i docenti o gli studenti che si stanno battendo in questa azienda, anche nelle università italiane, nei laboratori di ricerca, si battono per dire no, sto mettendo in discussione i saperi che io ho, sto mettendo in discussione l'uso di questi saperi nel contesto che è quello di produrre dispositivi medici. Allora il problema diventa molto importante, perché diventa un problema affrontabile, non un problema sismico o diciamo puramente teorico, non c'è niente teorico qui. La teoria ci serve semplicemente per dire in quale sistema sociale noi vogliamo vivere, vogliamo che, e come vogliamo che vengano utilizzate anche le risorse tecnoscientifiche che sono state e che sono disponibili per la nostra specie. L'aspetto antropologico è un aspetto che non ho poi sviluppato, che non sono accennato, ma è un aspetto molto importante per la ragione che dicevi tu, il rovesciamento del rapporto uomo-macchina, no? Ed è un rovesciamento recentissimo, crea una situazione storicamente ignota e crea soprattutto una situazione paradossale di allineamento del sistema biosforico degli umani, no, agli aggregati tecnologici. Se la macchina, ridotto in soldoni, se la macchina è quella che decide la linea di allineamento, no, inesorabilmente tu dovrai cambiare e diventare sempre più simile alla macchina. Se io utilizzo sempre più GPS, no, ridotto in un discorso, è indubbio che alla fine avrò bisogno di GPS. Ora, questo produce due effetti: per un verso atrofizza le mie capacità, ma per un altro eccita le mie capacità di andare contro la macchina, che significa che tendenzialmente, diciamo così, io divento macchina. La dimensione antropologica, no, perde la sua specificità rispetto alla logica e al sistema delle macchine. È proprio questo che crea quella filosofia che avete sentito, che è la filosofia dominante a Silicon Valley e in molti ormai in contesti anche di laboratori di ricerca internazionali, che è la filosofia transumanista. Una filosofia che dice terra a terra, dice, ma perché vi ostinate a voler rimanere ancorati all'Homo sapiens? Anche l'Homo sapiens, diciamo, ha dovuto affermarsi a scopo, diciamo, sul Neanderthal, no? In qualche modo per esterminare quelli di prima, perché aveva un altro modo di pensare la sua presenza nel mondo. Ora, l'Homo sapiens è a capolinea. L'Homo sapiens è a capolinea perché? Perché ha inventato, ha misurato dei sistemi tecnoscientifici che possono sostituire tranquillamente non solo le sue operazioni, fare molto meglio, perché sono copiate in qualche modo dalle sue, le fa molto meglio, e quindi lo libera da tutto ciò che era la sua attività. Ma può fare persino un'operazione più complessa, trasferire la sua umanità su un sistema di macchine. Oggi uno dei, diciamo, degli antagonismi più acuti, più attenti per dire a questo problema, non a caso nel mondo cattolico. Leggete l'Osservatore Romano, per esempio, l'Osservatore L'Avvenire, che è un quotidiano, dedica moltissima attenzione al problema dell'intelligenza artificiale. E le dedica perché c'è un punto da cui crollerebbe l'intero sistema, diciamo, del cristianesimo, che è il punto dell'immortalità. Non c'è un problema di fondo, c'è la paura della morte. Un problema di fondo, perché a Silicon Valley hanno detto molto chiaramente, beh, insomma, perché ci ostiniamo, noi possiamo trasferire una persona totalmente oggi su dei dispositivi, diciamo, che possono resistere ai secoli. E fanno mille esempi. Prendiamo Alexa, dispositivo di intelligenza artificiale iperdiffuso. Alexa in un minuto, dimostrazioni pubbliche, in un minuto di registrazione di un'interlocuzione si porta via la singolarità diciamo, sonora, vocale, di una persona. Dopodiché, dopo un solo minuto, è perfettamente in grado di reduplicare, proviamo, il mio discorso di oggi, no? Mettendomi in bocca altre parole. Ed è indistinguibile, perché sostanzialmente in un minuto studia, registra le mie vocalizzazioni, le mie imperfezioni, eccetera, e reduplica a quel punto qualunque tipo di discorso. La macchina può farmi mettere in bocca qualunque tipo di discorso. Ma oggi lo può fare persino un sistema video, questo. Avete visto un sistema, oggi la fotografia fake su tutti i social furoreggia. La tecnologia può fare questo, ma può fare soprattutto un'altra cosa, che è trasferire completamente il mio sistema, diciamo così, cognitivo, no? Su supporti che durano centinaia di anni. Il mio corpo fa poco, c'è e finisce, non so quanti anni, ma insomma pochissimi ormai. No, poi io come corpo non ci sono più, ma io posso trasferire tutto, perché gli scritti, le cose, cioè, la macchina oggi mi mette a posto e, diciamo, il mio modo di pensare, gli algoritmi mentali, le mie ricorrenze, le parole ripetute, il mio vocabolario, la mia sonorità, persino le mie immagini, cioè, lo può fare. E diciamo, oggi ci sono laboratori che lavorano su questo evento, addirittura già il futuro, diciamo così, artificiale delle persone. E allora, per esempio, a Silicon Valley ti dicono, vabbè, insomma, perché ti ostini a voler vivere 40 anni, 50 anni, 100 anni, no? Tanto, diciamo, si può trasferire tutto. Dopodiché è la stessa cosa che tu vivessi. Ma, ed è proprio qui la discussione, che nesso c'è tra un sistema vivente, un organismo vivente e una macchina? Ed è questa la discussione che porta Ben Saliano. Il nesso è preciso, che gli organismi viventi non pensano col cervello, non pensano con dei sistemi tecnici. I sistemi viventi vivono, e vivono non con il cervello, ma vivono con tutto il corpo, e vivono in ambienti che sono ambienti di relazioni, sono ambienti di relazione con le piante, gli animali, l'aria. Noi siamo quella realtà, siamo organismi viventi, non siamo aggregati tecnologici. Gli aggregati tecnologici possono simulare, fare molte simulazioni, ma se noi ci adattiamo a trasferirci con le nostre attività negli aggregati tecnologici, certo, sul piano delle funzioni diventiamo forse persino più efficaci e più efficienti, ma nello stesso tempo diventiamo semplicemente dei doppi delle macchine, perché ci rendiamo simili ai dispositivi macchinici, non simili ai dispositivi viventi. L'alternativa invece è quella di immaginare la centralità dei sistemi viventi, che si immagina finalmente capace di pensarsi in una maniera non una guerra fondale. Noi come specie, questa è un'opinione mia, è buttata da pure nel cestino, ma siamo una specie molto arretrata, cioè siamo una specie che non è capace di vivere senza scannarsi, cioè, quindi siamo dentro una cultura che per andare bene nella vita devi sopravvivere qualcuno. Bene, io penso invece che occorra fare un grosso sforzo con i sistemi viventi per immaginare degli adattamenti, diciamo, col mondo, con la vita, con gli altri, degli adattamenti che vanno in un'altra direzione. Questo non sarà semplice, probabilmente, ma è un piano di ricerca. È un piano che ci deve imporre come, diciamo così, condizione proprio fondamentale di quella. In questo quadro tu puoi pensare anche a tecnologie che vanno in una direzione, tant'è che molti lo fanno, come però molti, diciamo così, conducono anche una resistenza che dobbiamo proprio rispettare moltissimo. Cito tutta Assange, visto che avete uno striscione, Lima, Snowden e tantissimi altri che oggi ci aiutano a affrontare battaglie rendendo pubblici i dispositivi nascosti, rendendo pubblici, diciamo, le fonti documentarie che ci mancano, proprio per ragionare in termini di non farci fuori, ma insomma immaginare una forma di vita che ci consenta di stare tutti su questo pianeta, perché non è che ce n'è uno che ha più diritto di un altro. Questo è il senso dello scontro, l'orrore che ci fa quello che avviene in Palestina è sì un orrore per il genocidio, ma non è quello il punto, è ancora più profondo il punto. E non riusciamo a immaginare un altro modo di stare al mondo se non è quello di sterminare i più forti, che i più forti sterminano i più deboli. Quello che avviene lì è quello che avviene per i curdi, è la stessa cosa. È quello che è avvenuto per gli indiani d'America, è quello che dai tempi di Cristoforo Colombo, cioè noi conosciamo come colonizzazione del mondo occidentale, questa cosa. Allora questo però ci spinge poi sul territorio, diciamo così, di altro genere, quindi non voglio andare avanti su questo terreno, però dico che sul piano della ricerca questo è un problema importante, perché oggi non si può più fare una riflessione veramente politica seria se non si mette insieme una critica della società di oggi, che sia una critica, diciamo così, che abbia un respiro sul futuro, una critica che pensa che sia possibile cambiarlo in questo mondo. Se ne pensiamo che non è possibile cambiarlo, penso, ed è tutto inutile anche discutere. La prima è tutto il lavoro di ricerca, ma non soltanto la ricerca, ma anche i libri di pubblicazione di altre persone che hanno scritto, che vedete possono essere ordinati direttamente alla casa editrice, oppure ogni primo a Napoli, ogni primo giovedì del mese, dalle ore 17 alle ore 20, troverete queste pubblicazioni presso la Galleria Principe, ogni primo giovedì del mese, però, ogni primo giovedì del mese. Poi, Nicola, Renato si fermerà al banchetto, saremo ancora qui. La seconda pubblicazione, noi vogliamo ringraziare le compagne e i compagni di Santa Fede Numerata, che non soltanto questo pomeriggio, ma da molti, molti anni sono vicino alla comunità sensibile delle folle rispetto ai punti di ricerca. Grazie compagni, grazie a tutti. E difendiamo gli spazi liberi. Teniamo in mente questo foglio rosso, perché nel prossimo futuro questi spazi di libertà saranno sotto attacco. Buonasera a tutti.